Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 13 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Parleremo del vertice europeo perché resta una divisione molto forte tra falchi e colombe a livello europeo. Si riunisce appunto questa sera l'Eurogruppo, ne abbiamo parlato anche ieri. È chiaro che c'è la discussione sull'uso del meccanismo europeo di stabilità per fornire agli stati prestiti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Qual è il tema? È che i paesi del nord, Olanda, Finlandia, in parte anche la Germania, che ha posizioni un po' diverse, vogliono mantenere il meccanismo invariato, quindi vogliono che vi siano tutti gli elementi della condizionalità per utilizzare il meccanismo europeo di stabilità, e quindi se un paese ricorrerà al MES perché non riesce più a finanziarsi tramite i canali tradizionali, si sottopone poi a un programma di risanamento dei conti e vigilanza da parte delle istituzioni europee, la cosiddetta, diciamo, commissariamento, come lo chiamano alcuni. Invece i paesi del sud, Spagna, Italia, Portogallo, ma anche la Francia, chiedono che, visto che non si tratta di, come spiegavamo ieri, un errore dei singoli paesi nella gestione dei conti pubblici, cioè non sei finito in difficoltà da approvvigionamento finanziario perché hai gestito male i tuoi conti, hai speso male, hai tagliato poco e quant'altro, ma c'è un fenomeno, una guerra vera e propria che si chiama pandemia in corso, e si dice: attenzione, non si può utilizzare lo stesso meccanismo come se un paese, come insomma fece la Grecia quando truccò i conti e venne appunto commissariata. I paesi del centro-nord dicono: beh, in realtà però abbiamo già sospeso il patto di stabilità e questo è per ora è sufficiente. Attenzione, perché la sospensione del patto di stabilità fa sì che, per esempio, la Germania, che aveva un deficit pari a zero, possa portare il suo deficit al 3% investendo 125 miliardi. Paesi, e mi riferisco anche alla Francia, che già aveva un deficit al 3,9%, hanno più difficoltà, e l'Italia, a far aumentare il deficit in quel modo, perché comunque è deficit, cioè va ad aumentare il tuo debito finale. Ecco perché si dice: quella linea lì va bene sull'intervento immediato, i 24 miliardi che poi verranno rifinanziati ad aprile, ma non va bene quando dovremo iniziare a prendere, superata questa fase di emergenza, in mano l'economia dei vari paesi e risollevarla, perché sarà in ginocchio. Faccio notare che la Cina ha avuto un calo del PIL intorno al 30% su variazione annua, quindi se tanto mi dà tanto, questi mesi di chiusura porteranno una variazione del PIL del secondo trimestre a un meno 30 sull'anno precedente, meno 30. Ed è chiaro che un conto sono gli strumenti tampone, appunto cassa integrazione in deroga, piuttosto che le misure già messe in campo, altra cosa è dire: bene, come rifinanzio interi settori, come faccio accedere alla liquidità? La Germania si è già, la Francia si sta già pensando a nazionalizzare alcune imprese che dovessero andare in difficoltà. Ecco, ti servono soldi. Se i soldi però vengono dati solo a debito e con un debito vero e proprio, posticipi in là il problema. Altra cosa è appunto che si chiamino coronavirus bond, che si chiami un nuovo meccanismo per il Fondo Europeo di Salvataggio, dare un debito o così a lunga scadenza che di fatto, cioè, non ti obbliga a ripagarlo a breve, o dare un debito di carattere europeo, o avere una moratoria sui debiti. Comunque, oggi in Germania si è stimato un meno 20%, sono d'accordo, a meno 20% nell'andamento del PIL tedesco del secondo trimestre rispetto al secondo trimestre di un anno prima. Ho capito, anch'io sono d'accordo che non è possibile che paesi piccoli, con massimo rispetto, Olanda, Finlandia, blocchino quelle che sono le richieste dei paesi più grandi, perché possiamo far finta che contiamo tutti nello stesso modo, però poi anche gli abitanti e il peso dei singoli paesi ha una sua rilevanza, visto che poi la moneta è comune, per cui Però questo prevedono in questo momento le trattate internazionali di carattere europeo e che quindi ci possa essere il veto dei paesi del nord. La Germania, dico, ha un atteggiamento duplice, perché abbiamo visto von der Leyen, anche Angela Merkel, von der Leyen non è tedesca, chiaramente in questo caso parla come presidente della Commissione Europea, avere un atteggiamento di maggiore apertura. Altri, penso al ministro economico tedesco piuttosto che il presidente della Bundesbank, ho la sensazione che si trincerino, lasciano andare avanti Olanda e Finlandia, ma dietro, diciamo, per non esporsi in prima persona, ma la pensino esattamente come loro. Dunque, per quello che riguarda altri temi, certo che ci occuperemo, poi avremo la diretta come sempre della protezione civile, avremo anche la stretta del governo, perché da un lato appunto il governo oggi ha chiarito che dai prefetti può arrivare lo stop alle aziende non in regola, il confronto governo-sindacati riprende alle 17, faremo un punto alle 18:15 sul confronto governo-sindacati dopo le tensioni che si sono registrate ieri, le minacce di sciopero che sono previste per domani, penso ai metalmeccanici del Lazio, ai metalmeccanici lombardi e anche la chimica nella Lombardia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiremo con due notizie per un'apertura. La prima riguarda il mondo dei benzinai, che verrà, da questo punto di vista c'è un tema, è stato dichiarato che tra due giorni chiuderanno le pompe di benzina. Non stiamo cercando di capire se questo riguarderà gli impianti, l'appuntamento sarà tra un'ora, alle 18:15, se questo riguarderà anche gli impianti automatici, cioè vorremmo capire molto banalmente, perché si è creato un po' di panico su questo, anche perché il mondo dell'autotrasporto è assolutamente preoccupato da questo. Dicevo, si è creata, i sindacati hanno minacciato da questo punto di vista il blocco delle pompe di benzina, ma non si capisce se sono bloccate anche le automatiche. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora andiamo sulle borse, che è la buona notizia di oggi. In apertura dicevo avremo un'altra buona notizia, cioè c'è una proposta avanzata dal mondo di Confindustria Moda, e quindi dal presidente Claudio Marenzi, per invitare tutti i locatari di spazi dedicati ai negozi e aziende del tessile, moda e accessori a sospendere la richiesta di pagamento del canone. Ci sono 50 aziende che lo chiedono, insomma. Confermano da un benzinaio self aperti. Sì, adesso vediamo, avremo i rappresentanti che rappresenta la categoria dei benzinai. Che senso ha chiudere pompe di benzina? Loro lamentano, come altre categorie produttive, di non essere messi in condizione di lavorare nel servito, non nel self service. Mascherine e dotazioni, non è ahimè, non è l'unica categoria che lamenta questo. Le borse sono oggi la notizia principale, quanto notizie positive, perché sono tutte in grande rispolvero dopo che, insomma, l'America sembra aver trovato la quadra sugli aiuti. L'America, adesso poi vi darò anche la classifica dei contagi, però più 6,70% Milano, che torna sopra i 16.000 punti, più 9,14 Francoforte, più 6,70 anche Parigi, più 6,40 Londra, Dow Jones più 9%, bene tutti i titoli, Exor, quindi controllante del gruppo Fiat, che molto aveva ceduto in questi giorni, più 18,5%, Nexi più 13,70, Buzzi più 12, ST Microelectronics più 11, Leonardo pure, Moncler pure, Eni pure, Mediobanca più 9,60, Fiat Chrysler più 9, come generali, l'8,5% lo guadagna Ferrari, l'8% banca Mediolanum, mi fermo con chi guadagna più del 7%, ossia Azimut più 7,80, Fineco più 7,60, Unicredit più 7,40, Ferragamo più 7,20%, Ubi più 7%. Diasorin è l'unico negativo, meno 1,70%. Chiaramente Wall Street è l'America dalla carica oggi, perché il piano del governo americano, da un lato, da quello che si è capito, stanno rivalutando anche l'operazione della Federal Reserve di ieri accolta male, quindi liquidità illimitata, un quantitative easing illimitato. Dall'altro, l'America dovrebbe aver trovato l'accordo su un piano da 2.000 miliardi, e poi si aspettano anche segnali dall'Europa e dai G7, che hanno detto che dovrebbero fare, che faranno il possibile per combattere l'emergenza economica. Qualche altra valutazione dalla Cina, perché c'è un parziale ritorno alle attività. Nessuno parla di bar e ristoranti, siamo a zero. No, guardi, abbiamo parlato di bar e ristoranti fin dai primi giorni. Lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666, perché chiaramente col settore turistico sono stati i primi settori ad essere colpiti, e su questo ho visto oggi un'intervista al ministro Provenzano, che dice dobbiamo aiutare anche chi lavora in nero. Allora, qui bisogna però stare attenti, Provenzano, io capisco tutto, però lei è il ministro per il sud e per la coesione territoriale, però bisogna stare attenti a queste dichiarazioni. Cosa vuol dire aiutare chi lavora in nero? Il nero è illegale. Io so a cosa lei si riferisce, che ci sono molti, non solo al sud, lavori part-time che vengono svolti in nero, però sono illegali, ministro, tant'è che esiste il reddito di cittadinanza che non è compatibile con il nero. Cioè, come facciamo a dire se bisogna aiutare anche chi lavora, e come stabiliamo il nero? Io resterei sulle cose, insomma, iniziamo a aiutare chi lavora legalmente e chi ha chiuso legalmente tutti i contratti in essere, e cercare di capire quale sarà il piano straordinario, non certo questi, diciamo, di tamponamento per il futuro. E poi il nero, mi dispiace, uno che faccia adesione per richiesta per reddito di cittadinanza, ma no, io non me la sento, anche perché vorrebbe dire aiutare chi non ha contribuito di un euro per esempio alla spesa sanitaria in questi anni. Ma perché devo aiutare chi lavora in nero? Cioè, abbiamo tante di quelle categorie, ministro Provenzano, che aspettano indicazioni. Mi stanno arrivando messaggi da qualunque categoria, è ovvio, bar, ristoranti, turismo, il mondo delle palestre, il mondo cioè tutti sono in ginocchio, e lei mi pare di aiutare il nero. Eh no. No, perché a questo punto giustamente mi scrive uno: beh, allora aiutiamo anche gli spacciatori sono in difficoltà, però dal fatto che sia legale. E poi ripeto, c'è un problema anche etico. L'imprenditore, proprietario di un istituto commerciale che ha usato il nero, ha commesso un'illegalità, capito? E tu mi dici, come fa a dimostrare che... Ho capito, avrà difficoltà a dimostrare il calo del fatturato se buona parte del fatturato era in nero. Io cosa ci posso fare? Visto che, ripeto, quei soldi vanno a pagare anche le spese della sanità, degli medici, degli infermieri, dei poliziotti, dei vigili del fuoco e tutto quanto. E non è che quando uno arrivi al reparto gli si chieda il 7,40 o la dichiarazione dei redditi. Va bene, andiamo avanti con il resto. Dunque, devo dire che ho visto delle cose interessanti. Da un lato, per esempio, Boris Johnson nel suo intervento ha citato il sistema sanitario italiano come un sistema d'eccellenza, e ha detto: guardate che se l'Italia non ha retto, pur avendo un sistema sanitario d'eccellenza, in particolare, aggiungo io, nelle regioni colpite, è probabile che non reggeremo neanche noi. Ma Moody's oggi dice, nell'agenzia di rating, che la gestione del coronavirus da parte del governo statunitense finora è carente, sottolinea che la recente impennata di contagi degli Stati Uniti indica che la traiettoria del virus potrà essere perfino più critica rispetto all'Italia. E Moody's stima un calo del PIL quest'anno dell'area euro meno 2,7%, e ripeto, la Cina ha fatto meno 27% nel primo trimestre. E poi ha aggiunto altre considerazioni, vabbè, sulle stime future, meno 0,5% gli Stati Uniti. Poi c'è qualche dichiarazione della Casa Bianca, ma che tralascio. Ancora crollata l'attività di servizi e manifattura nell'area euro a 31 punti contro il 51,6 di febbraio. La Banca Centrale Europea ha confermato che sarà un grande acquirente nel mercato dei commercial paper, e quindi dei prestiti tra privati. E poi c'è l'intervista a Handelsblatt del ministro dell'economia tedesco che citavo prima, Peter Altmaier, che dice no agli euro bond, però dice l'innovazione più importante della sovvenzione. Non ho capito quasi nulla di questa intervista, perché dice noi siamo tutti determinati a evitare in Europa una nuova edizione della crisi finanziaria. Allora Altmaier, oltre a dire no agli euro bond, facci capire cosa proponi tu come ministro dell'economia della principale economia dell'area euro. Germania che ha superato i 30.000 casi, poi darò gli elementi. La Spagna è in ginocchio, superati i 40.000 casi. La Spagna sta crescendo a una velocità incredibile come numero di casi, e oltre 2.000 morti in Spagna, dove Madrid è la più colpita con 1.535 morti e 12.000 contagiati. L'Olanda ha 5.560 positivi e 276 morti. La Germania ha superato i 30.000 casi. E adesso veniamo anche alle dichiarazioni rese. Intanto in tema sindacale ne parleremo dopo, perché questa mattina era ospite Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari, con Maria Latella e Simone Spezia. Però tra l'altro c'è stato anche l'intervento alla conferenza stampa del commissario Domenico Arcuri, che è commissario all'emergenza. E ha detto tra tre giorni un consorzio di produttori italiani inizierà a produrre le mascherine e a dotare il nostro sistema, il nostro paese, delle munizioni che servono. Poi ha aggiunto sono aziende posizionate nel settore della moda, sette giorni fa lo consideravo utopistico, però in realtà abbiamo un incentivo da 50 milioni per le imprese che riconvertono i loro impianti per produrre ancora altre mascherine. Sentiamo Arcuri. Fra tre giorni inizieranno la produzione. Noi pensiamo che in poco tempo copriranno la metà del nostro fabbisogno. Questo è un risultato straordinario. Se volete, sei giorni fa, quando sono stato nominato, lo consideravo utopistico, non solo inaspettato. In pochissimi giorni, nel paese che troppo spesso è piegato dai lacci e i lacciuoli della burocrazia, abbiamo chiesto ed ottenuto dall'Unione Europea, dopo il decreto che il governo ha varato, l'autorizzazione a lanciare un incentivo che si chiama Cura Italia, che gestirà Invitalia, che è online da stamattina. Questo incentivo permette di finanziare con una dotazione complessiva di 50 milioni le imprese che vogliono riconvertire i loro impianti per produrre ancora altre mascherine che ci servono. Abbiamo fatto tutti uno sforzo straordinario. Spero, anzi sono convinto, che molte centinaia di imprese italiane cercheranno di coglierla. Il tempo è la variabile decisiva. È indispensabile che queste produzioni inizino prima possibile per dare un contributo rapidissimo alla soddisfazione del nostro fabbisogno. A noi servono più di 90 milioni di mascherine al mese. E poi Arcuri ha continuato: dal 29 marzo arriveranno 8 milioni di mascherine FFP2 e 3 e 6 milioni di mascherine chirurgiche dalla Cina. I nostri aerei andranno a ritirare il materiale laddove si trova, perché abbiamo visto anche casi di materiale bloccato in questi giorni. E così come ho visto che c'era un imprenditore, almeno milanese, però hanno indagato il legale rappresentante, hanno bloccato ad Ancona, se non ricordo male, decine e decine di respiratori che stavano per partire per la Grecia. E chiaramente, comunque, Arcuri sulle mascherine dalla Cina. Dal 29 marzo, per 8 settimane, importeremo dalla Cina 8 milioni di mascherine FFP2 e 6 milioni di mascherine chirurgiche la settimana. Grazie ad un lavoro coordinato con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero della Difesa, ringrazio in ugual misura il Ministro Guerini, saranno i nostri aerei ad andare a ritirare il materiale laddove lo troviamo, per non perdere neanche un minuto perché possa arrivare nel nostro paese e perché noi si possa rifornire tutte le regioni che ne hanno bisogno. Allora, a questo proposito, sul doppio fronte di quello che può fare il settore chiaramente tessile e della moda italiano, e poi però anche sulla proposta che è arrivata da Confindustria Moda, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi. Buonasera Marenzi. Buonasera. Allora, resti con noi ancora qualche minuto, vorrei capire intanto quali, alla luce di quello che ha appena detto Arcuri, quali possono essere le riconversioni, come si sta muovendo la vostra, il vostro settore, che chiaramente è quello a cui tutti pensiamo per primi quando parliamo di mascherine, e poi la proposta che avete fatto di ai locatori di spazi dedicati a negozi di aziende del tessile, moda e accessorio, di sospendere la richiesta del pagamento del canone di locazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, presidente Confindustria Moda, Claudio Marenzi, intanto che cosa possono fare quanto a riconversioni le industrie che lei rappresenta, quindi il sistema tessile italiano, mi riferisco a mascherine ma non solo, anche camici e comunque attrezzature di carattere sanitario, prego. Allora, diciamo che abbiamo iniziato in questi ultimi 6 giorni ad avere un'ondata incredibile di solidarietà, per cui un sacco di aziende che volevano e che vogliono impegnarsi su questo. Per cui col commissario Arcuri qualche giorno fa abbiamo messo a punto noi con Confindustria Moda e anche con Confartigianato un protocollo, perché il problema è ovviamente noi possiamo convertire, ma ci devono essere, bisogna seguire dei protocolli, delle certificazioni sul materiale che sulla produzione. Per cui in qualche giorno, insieme anche allo sportello Amianto Internazionale e nella figura del dottor Protti, abbiamo iniziato a lavorare su un protocollo e abbiamo messo a punto, diciamo che abbiamo messo insieme una serie di aziende con una capacità ipotetica, poi andrà diciamo così, verificata, di 2 milioni di mascherine al giorno, e questo siamo partiti. Abbiamo ragionato con il commissario Arcuri e questa è la nostra capacità, che poi andrà verificata. Sono tutte aziende che ovviamente non hanno fatto questo di lavoro fino certo. Adesso, per cui da pantalone, camicia e quant'altro. Per cui devo dire che sforzo puramente di solidarietà, perché seppur poi hanno ovviamente abbiamo ragionato anche sui costi, però è chiaro che voglio dire, è più un volontariato che altro, però questo è un grande risultato. Ecco, veniamo invece al settore. Io ricordavo prima che ci siamo occupati fin dall'inizio di agenzie di viaggio, alberghi, ristoranti, bar, perché lì è arrivata subito la mazzata, ancora diciamo da fine febbraio, ed era già in ginocchio il settore turistico, perché veniva comunque da tutti i problemi legati al coronavirus in Cina e già sapevamo, insomma, di grosse disdette. Poi si è arrivati al fermo del settore. senza, diciamo, hanno chiuso e sono chiusi. L'altro settore che subito è andato in difficoltà a livello macro, oltre a quello alberghiero, turistico e dei servizi connessi, bar, ristoranti e quant'altro, catering, autisti, taxi, è stato il settore dell'abbigliamento, della moda, dei negozi di abbigliamento, perché anche voi siete stati chiusi praticamente fin da subito. Cosa vuol dire la proposta che avete avanzato di sospendere il pagamento del canone di locazione? Sì, vorrei sottolineare che molte volte poi la moda è il catalizzatore di tutte le altre, tante altre attività, nel senso che poi le vie della moda, non solo di Milano, di Roma, Milano, di New York, Parigi, Londra, che questi sono tutti chiusi, e che la moda è molto catalizzatrice di questo, per cui, e non solo, ma attira anche gli affitti più alti, che ovviamente sono in relazione al traffico che poi creano loro stessi, per cui in qualche modo la moda è vittima del successo attraverso poi e per cui di fatto sono gli affitti diventano questi. Detto questo, in questo momento è completamente chiuso, per cui noi nella moda ci sono degli affitti altissimi su un fermo totale, ma probabilmente su un traffico estremamente più rarefatto nel futuro, perché ovviamente poi la moda viaggia anche molto attraverso il turismo, per cui dire le stesse caratteristiche. Per cui quello che noi abbiamo richiesto in una lettera aperta a tutti i locatori è quello di rivedere, anzi di fermare, di stoppare gli affitti nel periodo di fermo nelle varie città, e ripeto, questo è generico, e poi di rivedere il canone di affitto nei mesi successivi fino a un ripristino del traffico corretto. Sarà molto difficile, però questo è un atto dovuto per tutti i nostri associati e nei confronti dei locatori. Allora, intanto qualche aggiornamento, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con le nuove sanzioni, adesso ne parleremo nella seconda ora, è stato approvato pochi minuti fa, e poi invece Alitalia sta trasportando dal Brasile 2 milioni di mascherine destinate al Piemonte, sono arrivate questa mattina, scusatemi, alle 6.23 a Fiumicino. Nota di Alitalia, mentre mi stanno scrivendo molti ascoltatori del Veneto che la Protezione Civile sta suonando e consegnando a domicilio le mascherine da parte della Regione Veneto. Bene, evidentemente alcune regioni si riescono a muovere meglio di altre, però poi appunto il tema è della produzione complessiva, quello di cui sentivamo dire prima Arcuri e anche adesso Marenzi. Grazie anche al Presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi. Andiamo sul traffico dopo un tema che riguarda quello che citavo, il MES, cioè che strumento utilizzare superata la fase emergenziale e superati gli strumenti di finanza straordinaria, appunto fare più deficit, la sospensione del patto di stabilità. Se ne discuterà questa sera l'Eurogruppo, perché dove si riunisce, e poi appunto la discussione di oggi è soprattutto come utilizzare il meccanismo europeo di salvataggio, e cioè i paesi Italia, Francia, Spagna, Portogallo chiedono che non diventi però un modo per farsi commissariare. E da noi, va detto, al di là dell'opposizione, ma anche il partito più forte della maggioranza, che sono i 5 Stelle, ha detto che non firmerà mai un accordo capestro, diciamo così, per quello che riguarda il MES. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, vedo che molti continuano a scrivermi sulla dichiarazione del ministro Provenzano. Io spero che le corregga, e che il ministro per il Sud e per la coesione territoriale, e che levi sta cavolata del risarcimento anche a chi fa nero. Oh, non si può, punto e basta. Provenzano è ministro per il Sud, non è ministro per il nero, Anche perché, ripeto per la terza volta, proprio in questo momento dove vediamo come è ridotta la sanità nazionale in alcuni casi, i tagli fatti, li hanno chiesti sì in parte l'Europa e le politiche di austerity, ma anche le risorse sono mancate da chi bellamente in questi anni faceva nero e però poi all'ospedale ci andava lo stesso. Quindi Provenzano, per favore, rettifichi e si scusi, ministro. Poteva anche star zitto a questo punto, però mai che ha parlato, rettifichi e si scusi con tutti gli italiani che pagano le tasse correntemente. Allora andiamo sull'Europa. Vedo poco fa il ministro Gualtieri ha detto la nostra proposta, il nostro approccio sul fra le risorse a cui guarda il governo italiano per finanziare le risorse contro lo shock economico del coronavirus c'è l'ipotesi di usare l'emissione di Eurobond da parte del meccanismo europeo di stabilità senza alcuna condizionalità, cioè senza che questo debito di carattere europeo emesso dal meccanismo europeo di stabilità ponga le condizioni però per un commissariamento del paese. Di nuovo in collegamento con noi Antonio Poglio Salimbeni da Bruxelles. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Dunque, oggi ho visto sul fronte diciamo più critico, dopo l'Olanda di ieri, un'intervista del ministro tedesco all'economia che diceva sostanzialmente, eccolo qua, Altmaier ad Handelsblatt, respinge però l'idea degli eurobond, siamo determinati a evitare una nuova edizione della crisi finanziaria, però sono contrario agli eurobond. Si è mossa qualche posizione rispetto a ieri, oggi appunto si riunisce in serata l'Eurogruppo, oppure restiamo sempre con i rigoristi del nord che vogliono comunque la condizionalità, cioè che vi siano delle condizioni per accedere al fondo, e invece Spagna, Francia, Italia non vogliono pagare nessuna misura punitiva per una crisi di cui nessuno ha colpa e per un evento che è arrivato dalla Cina? Ma devo dire, le posizioni restano quelle di ieri e di qualche giorno fa, per la verità. Alle 18 adesso comincia, alle 18.30 comincerà la riunione per videoconferenza dei ministri finanziari dell'Eurozona, a cui partecipano anche i ministri dell'area non euro, però non ci sono ancora le condizioni per un'intesa. D'altra parte, stamattina già il ministro delle finanze francesi Bruno Le Maire aveva detto anche secondo la Francia non si deve ricorrere al classico concetto di condizionalità, come è successo per la Grecia e altri paesi salvati durante la crisi finanziaria. Tuttavia non abbiamo, ha detto Le Maire, non abbiamo un'urgenza a trovare un accordo, e questo è stato il segnale che indica come non ci sia accordo, come della questione parleranno giovedì nella loro riunione sempre per videoconferenza i capi di Stato e di Governo della UE, quindi la materia dovrebbe passare a loro, a meno che non esca fuori dal cappello stasera o domani, non esca una nuova idea che al momento non è chiaro che cosa possa quindi essere. Tu stai dicendo la palla verrà spostata all'incontro del Consiglio Europeo capi di Stato e di Governo, capito bene? Direi di sì, questa è l'impressione. Anche perché qua ascolta, ti risulta invece una cosa che non è di colore: il capo del MES è un tedesco, si chiama Klaus Regling. Klaus Regling. Ecco, c'è molta polemica perché sembra che lui si è lasciato sfuggire. Francia e Spagna dovranno arrivare in ginocchio, ma è stata smentita questa cosa? Perché che io sappia, no. Non conoscendolo, ma questo non vuol dire niente naturalmente, insomma mi sembra molto strano abbia detto una cosa del genere, il che non vuol dire che non l'abbia, che potrebbe averla detta, ecco. Però voglio dire, so. Allora la cosa più importante però in questo momento è capire Regling conta qualcosa o no, nel senso che se poi la decisione è politica Regling può pensarla come vuole, a me interessa anche relativamente poco come la pensi Regling, perché poi sono, se ho ben capito, i capi di Stato e di Governo che dicono come si utilizzerà sto MES, al di là diciamo di chi... No, dunque no, dunque il meccanismo europeo di stabilità è uno strumento che è una società che ha un suo consiglio di amministrazione, del consiglio di amministrazione fanno parte i ministri del tesoro dei 19 stati dell'Eurozona, okay. I quali decidono loro, cioè non è che... Naturalmente loro decidono sulla base, cioè il trattato, perché è un trattato firmato dai 19 paesi, è stato firmato dai leader dei paesi dopo essere passato nei parlamenti, voglio dire. Regling è il direttore generale, come tutti i direttori generali, passa attraverso le forche caudine del Consiglio d'amministrazione. Cioè è il Consiglio d'amministrazione che decide, cioè il ministro economico. È chiaro che ha un potere tecnico, è chiaro che ha un potere tecnico, ma voglio dire, però le decisioni le prende il Consiglio d'amministrazione. Okay. Cioè i ministri del tesoro. Senti, ma ieri tu ci paventavi la possibilità che in realtà un escamotage per non irritare i paesi del nord e il loro elettorato, ammesso che il coronavirus non vada a colpire, aggiungo io, loro in maniera così forte da mettere in ginocchio anche le loro economie, però riuscire a trovare un meccanismo straordinario che non può essere quello delle condizionalità, perché quello vale se un paese sbaglia i conti, fa saltare il banco, allora sì, ti prestano i soldi, però vieni commissariato. Può essere il fatto che tutti i paesi ricorrono al MES, e cioè non c'è un paese come quando la Grecia fu commissariata che ricorre al MES, ma tutti si prendono una quota di questi 400 miliardi, in modo che non ci sia, diciamo ieri, Calimero o il paese più negativo e gli altri più puri. Potrebbe essere ancora questa l'ipotesi più percorribile? Ma comunque sia la linea di credito precauzionale, quella rafforzata, che deve scattare se necessario il grande ombrellone, il grande bazooka finanziario della BCE, che è stato quello di Draghi del 2012, che poi non è stato neanche mai usato, non sarebbe per un solo paese, sarebbe per un gruppo di paesi. Ma comunque ci sono dei paesi, tra cui il gigante Germania, che non ne ha bisogno, l'Olanda non ne ha bisogno, la Finlandia forse sì, ma voglio dire... Sì, spieghiamo perché non ne hanno bisogno, perché avendo il deficit a zero, la Germania può già portare il suo deficit al 3%, spendere 125 miliardi di euro senza ricorrere al MES. Cioè, noi purtroppo avevamo un deficit già al 2%, 2,2, esatto. Che adesso si può superare la soglia del 3, ma faccio un esempio, la Francia già ce l'aveva al 3,9 perché ha un debito più basso, quindi ci sono paesi che erano più virtuosi dal punto di vista della gestione dei conti pubblici e quindi possono usare i loro soldi, altri no. Ti ho interrotto, però, scusami. No, questo hai fatto bene a rimarcarlo, il che dimostra che scontiamo, messo la palisse, che è meglio non avere debiti capito, alti, però... perché sì, lo so. E questo apre però... l'eterno problema italiano. Ma detto questo, nulla vieterebbe al Consiglio di amministrazione del meccanismo europeo di stabilità di inventare una nuova linea di credito. Spetta solo a loro, in teoria farla, anche se alcuni esperti mi hanno spiegato che non è che si potrebbero usare tutti i 410 miliardi. Comunque, di tutta questa vicenda, è vero che non c'è una stretta urgenza a decidere domani mattina o stasera o fra tre giorni. Il punto è il messaggio politico, no? Che conta molto. Anche perché per i mercati. Certo. Adesso non c'è bisogno di soldi, non c'è, perché adesso l'Europa ha messo in piedi un sacco di cose, i governi hanno messo in piedi un sacco di cose, poi c'è il grande scudone della Banca Centrale Europea, non c'è adesso un'urgenza, diciamo, finanziaria. C'è il rischio però che da qui a due mesi, se la crisi continua, se l'economia resta paralizzata, ci si accorgerà che alcuni paesi hanno sforato il deficit e serpeggerà l'idea, ma li pagheranno? Saranno in grado di farlo? Non saranno in grado di farlo? Il punto è che bisogna essere preparati a questa eventualità. Certo. Quindi è vero che non c'è un'urgenza, diciamo, di avere questi soldi subito, queste garanzie subito, che i soldi ci saranno, ma il segnale politico è tutto. Ok. Allora, grazie anche Antonio Poglio Salimbeni. Adesso poi avremo, dopo il GR24, il collegamento con la conferenza stampa della Protezione Civile. È appena uscito il dato sulla Gran Bretagna, sono saliti a più di 8.000 contagiati, 1.400 in un solo giorno, 87 morti in più, e quindi la Gran Bretagna passa da 6.800 a 8.000, e devo dire la verità, sta crescendo lì del 20% il numero di contagi, tant'è che appunto se n'è accorto anche Johnson e ha chiuso il paese. 8.000 vuol dire essere come l'Italia sostanzialmente tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, cioè quando abbiamo chiuso le prime regioni, Lombardia e l'altro. Segnalo, poi vi darò anche, giustamente qualcuno mi fa notare, ma com'è possibile che la Svizzera abbia quasi 10.000 casi e la Francia 20.000? Cioè non c'è proporzione. bisogna vedere anche quanti ne hanno beccati. Sappiamo che il problema è anche così anche da noi, cioè quanti ne stai tamponando. Però dopo il GR24 vedremo anche la situazione degli altri paesi. Chiaramente quello messo peggio è la Spagna, che è a 40.000 con 2.700 morti. E poi la Spagna è molto preoccupata, perché mentre in Italia ancora adesso l'85% dei contagiati, quindi anche dei ricoveri, è in tre regioni, in Spagna questa percentuale è scesa al 65%. Cosa vuol dire? Vuol dire che si sta sviluppando in maniera più sparsa rispetto all'Italia, dove per fortuna per ora, tocco ferro, sono tre regioni che fanno l'85% dei casi. Lì la sensazione è che il grosso casino l'abbiano combinato con la festa della donna l'8 marzo, lo dico già, 100.000 persone a Madrid, quando l'8 marzo, e questo è abbastanza colpevole, noi avevamo appena chiuso, definito zone rosse, la Lombardia e altre aree del paese, e i casi in Italia l'8 marzo erano appunto 7.300, che adesso fa ridere, ma erano 7.300, non i 40.000 spagnoli adesso. Comunque GR24. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. In viaggio con Tommy è il podcast di Radio 24 che racconta l'autismo attraverso il diario della mia ricerca, assieme a mio figlio Tommy, di oggetti straordinari per un'iniziativa straordinaria, l'asta per i cervelli ribelli. Il nostro racconto sonoro si arricchisce ora di 3 puntate speciali in onda la domenica alle 18 per 3 settimane. Saremo poi con voi in diretta a parlare di neurodiversità il 2 aprile, giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, per uno speciale Melog, ma anche con il film che Sky Arte ha dedicato all'avventura che ho vissuto assieme a Tommy e altre persone sicuramente fuori dall'ordinario. Focus Economia. Allora, sono appena stati diffusi dati della Protezione Civile. C'è una buona notizia e ce n'è una sicuramente non buona. Parto dalla notizia buona, e cioè il numero di contagiati è salito di 3.612 persone. Scusatemi, sto guardando anch'io assieme a voi le agenzie. 3.612 più di ieri. Il che porta l'aumento percentuale, se ricordo bene, al 7%, quindi è in calo l'aumento di contagiati. Ieri aveva fatto più 8%, domenica più 9%, sabato più 13%, venerdì aveva fatto più 14%, giovedì aveva fatto più 16%. E quindi il 7% è un dato basso, il dato più basso, io ho tutte le percentuali da quando, addirittura dal 10 marzo. E questa è la notizia positiva, cioè i contagiati sono cresciuti anche meno di ieri. Ieri erano stati 3.780, oggi 3.612. La notizia negativa è che i morti sono saliti di nuovo invece. Se ieri erano scesi a 600 e domenica erano scesi a 650 dai 793 di sabato, oggi sono risaliti. Sono saliti a 743 in più di ieri, quindi qui l'aumento è importante. Adesso cercheremo di capire quanto è in termini percentuali. Chiedo in regia se mi fanno il calcolo. Sono 743 più di ieri, perché ieri erano aumentati dell'11%, e anche qui in calo su domenica aumento del 13% e su sabato aumento del 20%. Quindi ripeto, la buona notizia è che sta calando ulteriormente il numero di contagiati. Pensate che giovedì ne facciamo 4.480 in più, venerdì 4.670, domenica 3.950, ieri 3.780, oggi 3.600 in più, che sono meno dei contagiati in più che ha avuto per esempio la Spagna in un giorno solo, 4.000 in più, o anche gli Stati Uniti, che poco fa hanno diffuso il dato. 6.000 contagiati più di ieri, sono a 48.000 i casi degli Stati Uniti. Però sono tornati a salire anche in Lombardia i morti, sono 402 due giorni di dati in calo, perché domenica erano stati 361, lunedì 320, oggi sono tornati a salire a 402. Quindi ripeto, e chiaramente 3.396 sono i malati in terapia intensiva, è chiaramente prestissimo per dire che c'è una vera inversione di tendenza. I morti sono aumentati del 12%, quindi un leggero aumento rispetto a ieri, però dicevo, l'unico effetto che si vede per il terzo giorno consecutivo è il calo dei nuovi contagiati, anzi per il quarto giorno, è da giovedì che è in calo, insomma giovedì, venerdì, il calo dei nuovi contagiati, e questa è la situazione. Ahimè, non ho molto altro da dare. Qualcuno mi chiede della Francia, la parte regionale, scusatemi, eccola qua. I nuovi contagiati, 958 in più in Lombardia, 490 in più in Emilia-Romagna, 365 in più in Veneto, 595 in più in Piemonte, 139 in più nelle Marche, 218 in più in Toscana, 140 in Liguria, 131 in più in Lazio, in Campania più 63, in Friuli più 77, in Trentino più 61, in provincia di Bolzano più 11, in Sicilia più 118, in Puglia più 78, in Calabria più 24. Quindi sembra, l'altra notizia positiva però per ora, sembra tenere la parte non Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte, ma cioè il centro-sud sembra tenere. Devo dire una cosa e poi passo già nei trovati. Mi sono arrivate molte segnalazioni dei sindaci del sud. Devo dire che spesso abbiamo criticato i sindaci anche nella classifica. In questo caso sta emergendo dal mitico governatore Campano De Luca, ma anche al sindaco di Messina, Cateno De Luca, sta emergendo una maggiore consapevolezza, cioè sono meglio i sindaci dei loro cittadini molte volte. Sindaco di Messina che vuole bloccare gli sbarchi, sono, è inutile poi dire sempre la società civile, in questo caso sono meglio i sindaci di chi li ha eletti in molti casi, visto quello che sta ancora capitando. Comunque siamo in collegamento con Gianni Trovati, buonasera Gianni. Buonasera 24... a voi. No, mi sono fermato perché Trump non perde il vizio, ha detto comunque l'influenza stagionale, gli incidenti automobilistici mietono più vittime del coronavirus, e non ha ancora capito che il problema non sono solo le vittime, è la saturazione degli ospedali, quindi il rischio di non riuscire più a garantire l'assistenza sanitaria. Ma è più duro, beh, c'è un detto a Brescia che dice: è più facile mettere in un posto che metterlo in testa. Trump veramente non ha... Gualtieri ha appena annunciato 600 euro agli autonomi, le domande possono arrivare la prossima settimana. Senti, Consiglio dei Ministri, Gianni, le ultime novità di carattere, diciamo, amministrativo, visto che si è tenuto il Consiglio dei Ministri. Prego Gianni. Allora, il Consiglio dei Ministri è appena finito e ha varato il decreto legge che prova a dare un'architettura, diciamo così, normativa reale in termini di normativa primaria alle tante misure di emergenza che sono state scritte nella pioggia di DPCM di queste settimane. Sostanzialmente questo passaggio serve a due cose. La prima, a coinvolgere il governo e il Parlamento nella gestione dell'emergenza, perché il DPCM è un atto solitario del Presidente del Consiglio, il decreto legge è un atto del governo che va in Parlamento per essere convertito in legge. E il secondo obiettivo è quello di fissare delle sanzioni più puntuali e più forti per chi viola queste misure di contenimento, per esempio per chi va in giro a farsi la corsetta e non va in giro invece solo per le tre ragioni che lo consentono. Ci sarà una multa fino a 3.000 euro che appunto aumenta di 10 volte, anzi di più, la sanzione precedente, perché precedentemente era applicato un articolo del codice penale che prevedeva una sanzione da 206 euro. Sì. Ora si arriva fino a 3.000 euro, quindi dipenderà dalla violazione, dalla gravità della violazione, ma insomma è una norma molto più stringente. Poi c'è un tentativo molto complesso di armonizzare le norme nazionali con le tante ordinanze regionali che sono arrivate in questi giorni. Sappiamo che in questi giorni, per esempio, c'era un certo caos nel rapporto tra il DPCM di domenica e le ordinanze più restrittive previste per esempio in Lombardia e Piemonte, ma non solo. Caos, vi tralascio i dettagli tecnici, il testo è stato appena esaminato dal Consiglio dei Ministri, caos che comunque non sarà risolto. Ed è su questo che volevo, c'è ancora un po' di confusione tra le ordinanze delle singole regioni e quelle del governo nazionale. Dicevi che su questo invece? Sì, allora andiamo al cuore del problema. Le ordinanze territoriali potranno aggiungersi, diciamo così, ai provvedimenti nazionali per introdurre misure ulteriormente restrittive, purché non siano in contrasto con le regole nazionali. Questo è il principio. Allora, grazie anche a Gianni Trovati in collegamento con noi. Andiamo sul traffico e poi il tema delle pompe di benzina, perché si è creato un certo panico dopo le dichiarazioni di chi gestisce appunto le pompe di benzina, che ha detto attenzione, noi a questo punto inizieremo da domani lo stop agli impianti di erogazione, si partirà da mercoledì notte con quelle della rete autostradale, compresi i raccordi tangenziali, e poi via via tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria. Dopo il traffico, Focus Economia. Dunque, alcuni contestano i numeri, guardate che i numeri, io non do mai la perché c'è il numero complessivo che considera i guariti, i deceduti, in questo momento sto guardando la progressione e quindi il numero di nuovi contagiati e il numero dei nuovi deceduti, ripeto, che si fosse appena messo in collegamento, la notizia positiva è che continua, seppur leggermente, a calare il numero di nuovi contagiati, 3.612 contro i 3.780 di ieri, 3.957 di domenica, i 4.800 di sabato, i 4.600 di venerdì, 4.500 di giovedì. La notizia negativa è che sono tornati a salire i deceduti, i morti, anche in Lombardia 402 in più, ci sono 743 morti in più, con un aumento del 12%, se non ricordo male, mentre i contagiati sono saliti solo del 7%. Dunque, il mondo dei distributori di benzina, perché lamenta, come altri settori produttivi, ce ne siamo occupati, di non avere adeguate protezioni per il lavoro che deve svolgere. Siamo in collegamento con il presidente della FAIB Confesercenti, Martino Landi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, poi veniamo di capire che cosa lamentate, ma intanto la comunicazione è uscita un po' male, se posso permettermi, perché la chiusura significa la chiusura del servito o anche dei self-service? Ma guardi, noi abbiamo fatto un comunicato dove abbiamo lanciato un grido d'allarme che in questa situazione, così come siamo messi, non siamo più in grado di garantire quel servizio pubblico a cui siamo chiamati invece a garantire. Questo è un problema soprattutto in questo momento legato alle stazioni delle autostrade che, se continuerà così, si riverserà anche sulla rete ordinaria. Ma al momento le difficoltà maggiori le registriamo sulle stazioni di servizio della rete autostradale. Mi scusi, difficoltà per mancanza di protezione dei vostri associati? Sì, chiaramente non siamo in grado di fornire ai gestori il materiale idoneo per la tutela della salute, mascherine e quant'altro. Ma essenzialmente le motivazioni sono dettate da un problema economico. In autostrada purtroppo non c'è la possibilità di fare il self-service con l'accettatore di banconote, perché in autostrada c'è è regolamentata, dove dobbiamo garantire il servizio 24 ore su 24 con il personale. Quindi non c'è stato mai investito le aziende petrolifere, non è stato previsto gli accettatori di banconote. Quindi il servizio o si garantisce con il personale oppure si chiude la stazione. Questo è il grande problema. Ora noi garantiamo, abbiamo fino ad oggi responsabilmente garantito il servizio, però purtroppo con le vendite che si sono azzerate, perché di fatto in autostrada si registra un calo intorno all'85-90% rispetto alla situazione già difficile che c'era prima del coronavirus. È chiaro che costringere il gestore a mantenere aperta la stazione di servizio con 3 turni di lavoro e quindi garantire 3 stipendi se va bene, ma diventano 6, perché io voglio vedere la notte se io posso mettere solo una persona a gestire un complesso di quella natura. Ecco, questi costi per garantire il servizio rimangono tutti sulle spalle dei gestori e noi non siamo più nelle condizioni di garantire lo stipendio ai dipendenti e di fare questo. Quindi o andiamo falliti oppure i gestori saranno costretti a chiudere. Allora, quindi se ben capisco, riguarda in primo luogo i distributori della rete autostradale, dove c'è un obbligo nell'avere il personale, diciamo, 24 ore su 24, quindi esatto. Non riguarderebbe i distributori della viabilità ordinaria, dove invece esiste, insomma, il distributore automatico, ho capito bene? Esatto. Per evitare altri allarmismi, non mi sembra che sia un periodo di allarmismi. Dopodiché, no, non c'è assolutamente. No, dopodiché però c'è il problema di... ho capito che voi state lavorando poco, ci mancherebbe, però c'è tutto il tema dell'autotrasporto, che è delicatissimo, perché autotrasporto significa autotrasporto di generi alimentari, medici, sanitari e quant'altro. Quindi che cosa chiedete al governo a questo punto? Non si può neanche immaginare che l'autotrasportatore non abbia una stazione di rifornimento in autostrada. Ho capito che state lavorando pochissimo, c'è chi non lavora affatto. Che cosa chiedete al governo? Ma guardi, noi chiediamo non solo al governo, ma anche ai concessionari autostradali, anche alle compagnie petrolifere, cioè di farsi carico almeno di una parte dei costi che il gestore da solo non può sostenere. Noi non vogliamo e non vogliamo assolutamente mettere in ginocchio il paese in una situazione di questo genere, meno che mai, cioè, come dire, costringere chi nella filiera lavora a metterlo in difficoltà. Questo mi auguro che non succeda. Il grido d'allarme però è che da domani sera potremmo trovarci in una condizione che qualche impianto nella rete autostradale venga trovato chiuso per i motivi che le dicevo, e non so poi per quanto poi questa cosa chi potrà resistere ancora di più. No, però io dico una cosa, adesso voi fate bene, però abbia pazienza un attimo. Landi, ci sono settori interi, mi stanno scrivendo per esempio tutto il mondo di chi, delle centinaia, di decine di migliaia di persone che lavorano nell'attività di palestra, piscine, che sono chiusi proprio, tutto il mondo della ristorazione è chiuso, il mondo dei bar è chiuso. Ora io capisco chiaramente il problema, però non è che gli altri settori produttivi dicano vabbè dai, chi se ne frega, lì stanno fatturando zero. Voi mi dite, noi abbiamo però da tenere aperto e quindi abbiamo dei costi che invece gli altri settori non stanno avendo, perché almeno sono chiusi. Però bisogna stare attenti, perché voi siete anche un settore strategico nell'approvvigionamento, per cui mi riferisco all'autotrasporto, tanto nessun altro può circolare. Avete chiesto un confronto al ministro, immagino, Patuanelli? Abbiamo più volte chiesto un confronto, abbiamo più volte inoltrato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, un incontro per affrontare questi problemi. Purtroppo non abbiamo riscontrato da parte delle istituzioni nessun interesse nemmeno a risponderci. Solo oggi, dopo questa programmazione, diciamo, di un'ulteriore difficoltà, il governo finalmente ha recepito la nostra grido d'allarme. E come l'ha recepita? Mi scusi, mi dica. No, le posso anticipare che già ci sono stati contatti con il ministero competente, dove abbiamo già iniziato, come dire, un confronto. Questo mi sembra utile e mi sembra doveroso dirlo, augurandomi che vada a buon fine, che qualcosa delle cose che noi chiediamo in qualche modo ci vengono riconosciute. Le porto un esempio che lei ha fatto giustamente: l'azienda che ha dovuto fermarsi, è chiaro, è più in difficoltà probabilmente di quelli che anche se lavorano e incassano poco. Però noi in questa situazione, così come siamo messi, essendo servizio pubblico, essendo la categoria dove siamo, ci viene richiesto di stare aperti, noi non potremo attingere a quegli ammortizzatori sociali, a mettere in cassa integrazione i nostri dipendenti, ci dobbiamo sempre accollare tutte le spese. Non possiamo usufruire del credito d'imposta relativo, per esempio, agli affitti che paghiamo, perché siamo ancora una categoria che può stare aperta. E per ultimo non possiamo nemmeno più garantire, come dire, attingere alla possibilità di rinviare le scadenze fiscali, perché siamo quella categoria purtroppo che abbiamo un volume di affari non indifferente oltre i 2 milioni di euro, però se si considera che questa è una categoria che quei 2 milioni di euro di volume d'affari è gonfiato per 70% da accise e da IVA. Quindi voglio dire, siamo una categoria che tutti quegli ammortizzatori sociali che oggi il governo ha messo a disposizione, così come siamo oggi, noi non ne potremo usufruire. Nemmeno... No, ma questo è un tema corretto, perché almeno, diciamo, almeno lo dico volutamente, le categorie che sono state obbligate a chiudere entrano nelle categorie. Voi invece siete aperti, quindi rischiate di non, o meglio, non potete ricorrere a tutto un insieme di strumenti. Spero che vi sia una capacità di un punto di caduta, anche perché voi siete un servizio pubblico, non vorrei arrivare poi al braccio di ferro con le autorità che vi chiedono di stare aperti e basta. La seguiremo, volevo appunto capire che cosa stava succedendo, e mi interessava anche capire cosa stava succedendo invece a chi deve ancora muoversi in macchina, non magari per tragitti autostradali, ma nella rete ordinaria. Ho capito il tema che riguarda soprattutto, se non esclusivamente, la rete autostradale. Grazie anche a lei, e quindi grazie anche al presidente della FAIB Confesercenti Martino Landi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Come sempre, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata da trascorrere rigorosamente a casa. Domani ci sentiamo dalle 17 in poi.